mattino. Non ho voglia per niente di studiare. Solo tu nella mia mente, solo tu sei importante. Prendo la Divina Commedia, non mi alzo neanche dalla sedia. Porto sul tavolo gli occhiali, comincio a parlare con i muri, con i muri. Chissà che cosa starai facendo. Mi volto e dico sorridendo, chissà se mi starai pensando. Io non ci credo, ma lo spero tanto, tanto. Io penso a te, che sei così triste, che hai capelli neri e due occhi chiari. E penso a te, che mi prendi in giro, ridi e poi mi sfiori. E ad un mucchio di colori. E penso a te, mano nella mano, ti accarezzo il viso e corriamo insieme sopra un prato di pensieri. Ho voglia di baciarti, ho voglia di stupirti e di sentirti sempre accanto a me. Penso a te, a te, a te. Ci vuole fantasia. Sarà meglio che mi alzi per andare a fare un giro. Me ne accendo ancora una e mi chiedo dove sia andata la fortuna. Saluto i muri, scendo le scale e la testa mi fa male. Chissà se mi vuoi un po' di te. Che bella coppia facciamo noi due assieme. Chissà quell'uomo perché ha freddo e butto via la sigaretta. La mia sigaretta. E poi penso a te, che sei così triste, che hai capelli neri e due occhi chiari. E penso a te, che mi prendi in giro, ridi e poi mi sfiori. E ad un mucchio di colori. E penso a te, mano, ti accarezzo il viso e corriamo insieme.